E chissà se ricordo dove ti sei fermato, tra i miei giorni più tristi o dentro più bella casa. E chissà se ricordo come mai poi ti ho amato, ho dormito con te ma non ti ho perdonato. E chissà se domandi dove tutto è finito, mentre bevi il caffè o fumi un altro tiro, mentre dentro la nebbia di un normale mattino io mi affaccio di nuovo ma non sei qui vicino. Ho un diversivo che mi copre tutto, perché non dirtelo sarebbe brutto. Io nell'amore penso se mi butto, poi ci bevo sopra sto l'ottavo flute. E tutte le domande che faccio io a te, mentre camminiamo ti parlo e mi dici vabbè. Odio tutto come i miei traumi, come un alcol test. Tu che fai le facce mi fai ridere, ma non posso fidarmi di te a costo di morire. Tra 8 miliardi ho scelto te. Che delusione, ma non posso chiamarti perché a un costo è inutile. Perché cercarti se non ha più senso? E chissà se ricordo dove ti sei fermato, tra i miei giorni più tristi o dentro il più bello caso. E chissà se ricordo come mai poi ti ho amato, ho dormito con te ma non ti ho perdonato. E chissà se domandi dove tutto è finito, mentre bevi il caffè o fumi un altro tiro, mentre dentro la nebbia di un normale mattino io mi affaccio di nuovo ma non sei qui vicino. E sembra stupido pensarti, poi faccio un passo indietro come se giocassi a scacchi. Le domeniche quei pranzi che duravano un giorno intero e tornavamo tardi. Con il cuore a 300 allora tu lo senti ancora, ma che brutta storia. In fondo tu sei come gli altri e mi sa che finisce che io non posso fidarmi di te a costo di morire. Tra 8 miliardi ho scelto te. Che delusione, ma non posso chiamarti perché a un costo è inutile. Perché cercarti se non ha più senso? Chissà se ricordo dove ti sei fermato, tra i miei giorni più tristi o dentro il più bello a casa. E chissà se ricordo come mai poi ti ho amato, ho dormito con te ma non ti ho perdonato. E chissà se domandi dove tutto è finito, mentre bevi il caffè o fumi un altro tiro, mentre dentro la nebbia di un normale mattino io mi affaccio di nuovo ma non sei qui vicino. E chissà se ricordo dove ti sei fermato, tra i miei giorni più tristi o dentro il più bello a casa. E chissà se ricordo come mai poi ti ho amato, ho dormito con te ma non ti ho perdonato. E chissà se domandi dove tutto è finito, mentre bevi il caffè o fumi un altro tiro, mentre dentro la nebbia di un normale mattino io mi affaccio di nuovo ma non sei qui vicino.